Io sono raccontaci la tua esperienza di questi giorni di lotta. Di anni di lotta. Di anni. Anni di lotta. Sono 15 anni, una sua lotta lunga, ma diciamo che gli ultimi mesi mi ha dato una forza, perché io ho 73 anni, ma mi ha dato una forza proprio tra gli amici che ho trovato, ritrovato anche, e poi perché è una causa giusta. Diciamo che per me non lotto più tanto, ma lotto per mio figlio, per mia nipote, per tutti gli altri che sono giovani, e lotto anche per quelli che non voglio sentirne parlare del Notav. Loro se ne fregano perché dicono tanto lo fanno, invece non lo fanno, io sono convinto che non lo faranno. Cosa ne pensi tu? Speriamo, stavo dicendo loro, Mal di Susa come Scanzano, speriamo che finisca nello stesso modo. Speriamo. C'è tutto il sostegno comunque, in tutta Italia, anche ieri un sacco di presidi davanti a Prefettura Milano, Trieste, Venezia, Bologna, Padova. Sì, sì, sì, ho sentito. Poi quello che mi è piaciuto ieri sera, Ballarò. Sì, l'ho visto pure io. Molto bene, perché prima gli ha chiesto al ministro come è andato, lui ha detto, bene, io sono contento della forza pubblica che ha fatto tutto un egregio lavoro. Ci sono state lotte, niente, no? Sì, sì, sì, ha fatto finta di niente. E poi però dopo si è visto no. Tutto, detto, ciao. E questo è importante. L'importante è proprio il montaggio, eh? Tutte le cose è così. Grazie. Prego. Di che...